Mine Vaganti di Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e benvenuti a Mine Vaganti. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento domenicale per raccontarvi un'altra Italia. Ci piace appunto dare voce a chi ha cose da dire, cerchiamo storie non banali, cerchiamo anche storie divertenti, cerchiamo storie bizzarre, insomma un'Italia poco raccontata. Noi siamo qua per darle voce, ma oggi vogliamo dare voce anche voi, visto che insomma due giorni di festa, siamo nel cuore dell'estate, domani è Ferragosto, che è anche un po' un giorno da mina vagante, così chiacchierando tra gli amici, sfogliando i quotidiani locali che sapete qui in redazione amiamo fare. Abbiamo scoperto che c'è tutta una programmazione, tutta una varietà di offerte dove veramente essere mine vaganti è il minimo. Ecco, segnatevi i nostri numeri, l'SMS che è il 349-238-6666 oppure il numero verde 800-2400-24. Vorremmo conoscere i vostri Ferragosto da mine vaganti, cioè fate qualcosa di particolarmente stravagante oppure qualcosa di particolarmente banale che però fa molto secondo voi Ferragosto, o che ne so, mai avreste immaginato di passare il Ferragosto proprio con quella persona o proprio a fare quella cosa. Insomma, vogliamo giocare un po' col vostro 15 d'agosto. 800-24-0024, il numero verde, 349-238-6666, gli SMS. Ma Mine Vaganti, come sempre, inizia con una storia. Io non mi sono messo a viaggiare perché credo che la felicità risieda nel viaggio. Ne ho cominciato a fare musica perché credo che la felicità risieda nel fare musica. Ho iniziato a viaggiare suonando perché partire con la chitarra oggi, per me, significa essere felice. Suonare la chitarra, viaggiare con una chitarra in mano per lui oggi significa essere felice. È una storia che finisce ieri e ricomincia proprio oggi con un progetto particolare. Una storia, una scelta di vita, una scelta spinta dalla passione ma anche dalla voglia di sperimentare una professione che lo porterà a girare le strade italiane raccogliendo soldi solo grazie alla chitarra. Lui si chiama Soltanto, questo è il suo nome d'arte, e proprio oggi da Santa Sofia, siamo in provincia di Forlì dove si tiene proprio un festival di basker, inizia questo suo lungo cammino, questo progetto, questo pezzo di storia di vita che vuole diventare qualcosa d'altro. Ciao Soltanto, benvenuto a Mine Vaganti. Ciao Fede. Ciao. La chitarra in questo momento dov'è? È qui con me, ce l'ho tracolla attaccata, non me ne stacco mai. Mm-hmm. Allora, abbiamo sentito un piccolo frammento estrapolato dal trailer che abbiamo già caricato anche sulle nostre pagine in Facebook o che si trova anche sul tuo sito, insomma è facilmente individuabile, però c'è il racconto di cosa significa per te viaggiare con una chitarra e con un piccolo amplificatore, questa ricerca trovata della felicità e questa voglia di fare un percorso che però ha già avuto un inizio, no? Perché tu con questa chitarra ci campi già da un pezzo. Sì, esatto, io ho cominciato poco più di un anno fa ormai, dopo che mi ero laureato in scienze politiche a Milano, avevo deciso di provare questa esperienza. Dovevo farlo in quel momento perché era il momento migliore per fare, insomma avevo finito i miei obblighi, i miei impegni che mi ero preso, e quindi cominciai questo viaggio senza soldi per l'Europa, in cui andavo in giro in autostop e mi ero promesso appunto di pagare tutto questo viaggio soltanto con i soldi che avrei guadagnato in strada. Se funzionava bene, se no me ne tornavo a casa con la coda tra le gambe, però ci avevo provato. E è andata bene, sono stato in giro 5 mesi alla fine in tutto, partendo appunto da Milano, sono passato da Lione, poi ho sceso tutta la Francia passando per l'Ardescia, Montpellier, sono entrato in Spagna passando per Pignani, Pirenei, fatto Girona, Barcellona, Valencia, Tarragona, Madrid, e poi ho trovato un Ryanair che mi ha portato a Tenerife, e quindi non me la sono passata male, insomma. E lì ho capito che era la mia strada e che avrei potuto, come dire, investire in questa cosa, per cui sono tornato a Milano e ho cominciato a farlo in maniera, tra virgolette, professionale, insomma. Certo, i musicisti di strada, gli artisti di strada sono tanti e si trovano per fortuna in tante città italiane, ci sono i festival che sono appuntamenti, però sono così tempi straordinari, no? Poi la quotidianità è altra. E questa quotidianità che da oggi hai scelto di raccontare, di condividere? Esatto, sì, abbiamo scelto in realtà uso il plurale perché la storia, questa specifica storia è mia, però in realtà è una storia che ho scelto di condividere con degli amici che sono dei professionisti del settore audiovisivo, dei registi, operatori, fonici, eccetera, che hanno scelto con me di raccontare questa storia, alla quale abbiamo dato il nome Ovunque Sei, che pertanto è proprio il racconto di un progetto più grande, appunto, che è quello di investire sui propri sogni. Io in questo caso racconto la mia storia della chitarra, però cerchiamo di raccontare una storia un pochino più generale, ecco. Ecco, invitando ciascuno a provare a investire almeno una volta nei propri sogni. È probabile che gli vada bene. Soltanto tu sei lì con la tua chitarra, noi ci collegheremo durante la puntata perché mi piacerebbe avere anche un assaggio di quella che è la vita da basker. Ma quando tu dici che ci si può campare, cioè possiamo farti un po' di conti in tasca, cioè quanto si guadagna a fare il basker? Ma guarda, io adesso senza entrare nel dettaglio, però io lavoro 3 giorni alla settimana, venerdì, sabato e domenica, 3 ore al giorno, quindi in tutto lavoro 9 ore alla settimana. E questo mi basta. Ok, quindi insomma è già abbastanza significativo. Ma adesso in questo viaggio che farai per l'Italia, dove dormirai? Ti fai ospitare da amici? Guarda, noi abbiamo scelto di fare questo viaggio appunto chiedendo ospitalità attraverso Couchsurfing o comunque insomma persone che incontreremo lungo il cammino, come è successo nel mio viaggio dell'anno scorso. Per cui appunto il livello di ospitalità andrà così, ci lasceremo guidare e poi appunto già stando qualche giorno fermi qui al Festival di Santa Sofia, poi ci fermeremo anche al Festival di Ferrara che tra una settimana esatta comincia, sia modo di insomma conoscere artisti e altre persone, per cui nascono nuove storie, insomma, nasce tutto in corso, quindi non abbiamo programmato pochissimo. Ok, Stelli Etti, allora ti seguiremo sui nostri link, abbiamo già messo le coordinate sia per il Festival di Santa Sofia sia per tutte le tue pagine, ci magari ritroviamo tra una mezz'oretta così ci racconti quello che sta accadendo in diretta. Ciao, grazie. Okay, ciao, dopo, ciao. Quanto tempo perso dietro a delle facce buie, solo per sentirmi dire quello che volevo. E quanta vita è scivolata sotto grandi uffici, quanti amori spenti dietro a dei contratti interinali. Continui a illuminare tutti i sogni miei, anche se non ci sei. Tu continui a illuminare tutti i giorni miei, anche se non ci sei. Perché ovunque proteggi. Insomma, abbiamo fatto questa sorta di adozione oggi di Soltanto, ci piaceva raccontarvi una storia che sta iniziando, la storia di un basker, la storia di un musicista di strada, e stiamo anche iniziando a leggere i vostri fragosti da Mine Vaganti al 349-238-6666, iniziano ad arrivare i messaggi, oppure il numero verde 824-0024. Marco ci dice: Ferragosto, doppio turno sul tram, più Mina Vagante di così. In effetti, Vagante sarai Vagante, Marco, comunque Buon lavoro Piero. Invece la Castellana Grotta sta partendo per festeggiare, si è sposato, il suo Ferragosto sarà il viaggio di nozze, mentre Simone ci invita tutti a Viareggio perché la sera di Ferragosto c'è il carnevale. Non lo sapevo, cioè, noi prendiamo tutto per buona e non abbiamo qui tempo, noi leggiamo i vostri sms. Ferragosto da Mine Vaganti, aspettiamo se avete voglia di raccontarci quello che farete, se farete qualcosa di particolarmente interessante, curioso, divergente, bizzarro, oppure se mai vi sareste aspettati di passare quel Ferragosto. Adesso invece cambiamo completamente discorso e parliamo di parolacce. Ciao Vito, benvenuto a Mine Vaganti. Ciao Federico. Ciao. Grazie che non hai aperto con una parolaccia per un attimo, ho visto dall'altra parte del vetro e c'è stato un momento di panico. Allora Vito, tu sei caporedattore di Focus, ma soprattutto sei uno dei massimi esperti in Italia di parolacce, sei animatore di un blog molto molto seguito, di cui do subito l'indirizzo, che è blog.focus.it/parolacce. E oggi è Ferragosto, quindi proprio per buttare tutto sul piatto parliamo di sesso e parolacce, va bene? A voglia. Senti. C'è l'imbarazzo della scelta, okay. Direi. Come si chiama da piccini la gattina? Come si può chiamare? Ah. La chitarrina. La passerottina. La fisarmonica. Ognuno, no, voglio dire. Sì. Ognuno gli ha messo il nome suo. La passerotta, la mona, la picchia, la crepaccia, la fucchiacca. Pensa napoletani, a fucchiacca! È bellissimo, è focoso, la tacchina, la topa, la sorca, la patonza. Ma è bellissimo! Un indimenticabile pesto di Roberto Benigni e indimenticabile anche la faccia di Raffaella Carrà. E con noi Vito Tartamella e anche questo spezzone sul suo blog. Allora Vito, tu da anni ormai studi le parolacce col tuo blog, ma non solo, un dizionario, insomma sei proprio un cultore. Come mai intanto questa scelta? Da dove nasce? Ma è nata, visto che siamo in estate, è nata proprio sul lettino di una sdraio. Sei anni fa, anzi forse sette, ho letto un articolo su una rivista che era dedicato alle parolacce. Ho detto, ma accidempoli, l'espressione era diversa ma non posso dirla in questo momento, è un'idea geniale fare un articolo sulle parolacce. Allora avevo iniziato a leggerlo con molte curiosità, che però sono rimaste tutte insoddisfatte. E allora da lì ho detto, ma io quasi quasi ci faccio un articolo, voglio scavare, e man mano che scavavo non ho trovato nessun libro in italiano e in compenso ho trovato tantissimo materiale un po' ovunque, dalla storia alla letteratura all'arte all'estero, e così il materiale da quello di un articolo è diventato il materiale di un libro, e così nel 2006 ho pubblicato il primo libro italiano sullo studio delle parolacce, che si intitola proprio Parolacce, e da quell'anno ho iniziato anche un blog, perché comunque per quanto avessi cercato di essere più trasversale, approfondito e completo possibile, beh, è un campo che nonostante le facili ironie è spropositato, e quindi trovo sempre tantissimi spunti per approfondire con molte curiosità, insomma. Certo, e appunto il tuo ultimo post è pubblicato venerdì, l'ultima inchiesta, perché di inchiesta quasi si tratta, insomma un lungo reportage su quello che è sesso e parolacce, hai proprio messo il focus, diciamolo, su quello, cioè sui termini in italiano utilizzati legati al sesso. Eh sì, perché tutto era nato qualche giorno fa, perché il direttore aveva fatto una copertina molto agostana naturalmente sul sesso e si era un po' divertito a mettere vari sinonimi un po' alla Benigni. Allora mi sono fermato, ho detto ma io non so quanti sono questi nomi. Nel libro avevo lanciato una stima, però non avevo avuto proprio il tempo e il modo di fare un censimento rigoroso, e quindi mi sono messo di buzzo buono, ci ho dedicato un paio di nottate e li ho contati tutti. E insomma è venuto fuori un dato che ha fatto impallidire pure me, che mi occupo da anni di questo argomento, perché le parole sessuali, e intendo proprio tutte, cioè da quelle scientifiche al lessico infantile, a quello più spudoratamente osceno, a quello più volgare, eccetera, eccetera, eccetera, sono in tutto 3163. 3163. Okay. E il titolo del post è I 1000 nomi del pisello e della patata, nel dire mille sei stato anche, insomma, per difetto, direi. Sì. E le tue fonti quali sono, scusa? Ma la fonte, diciamo, il lavoro è stato abbastanza facile perché prima di me c'è stato chi si è preso la briga di raccogliere in 8 secoli di letteratura italiana tutti i termini che sono stati usati. E sono Walter Boggione e Giovanni Casalegno che hanno pubblicato un decennio fa il Dizionario Storico del Lessico Erotico. Ed è uno strumento, insomma, per chi fa gli studi che faccio io, indispensabile, e con tutte le citazioni d'autore e quant'altro. Io non ho fatto nient'altro che contare tutti questi termini e poi dividerli anche per categoria e fare, insomma, tutte le percentuali, perché poi alla fine insomma ci stupiamo, inizio il blog dicendo che ci stupiamo del fatto che gli eschimesi, che poi non sono gli eschimesi ma un altro popolo, ma non ha importanza, abbiano più di 300 parole per denominare la neve. Però non consideriamo, non facciamo caso al fatto che noi abbiamo 10 volte tanto parole per parlare di sesso. E quindi, insomma, mi sembra una cosa estremamente eloquente. Sì, certo. Ecco, e dalle tue analisi o dalle tue statistiche c'è qualche dato più curioso di altro, qualcosa di particolarmente significativo? Beh, intanto per dare una fotografia generale, la percentuale maggiore di termini sono assorbiti dagli atti sessuali, che sono il 37%. Seguiti dai genitali maschili al 31% e da quelle femminili al 24%. I motivi di queste prevalenze io francamente non li so, perché sono i più diversi. Posso sicuramente ipotizzare che un'abbondanza di termini tale è dovuta a tanti motivi. Prima di tutto al fatto che, insomma, l'impulso sessuale è un impulso fondamentale della nostra specie e quindi, insomma, anima i nostri pensieri e le nostre fantasie. In secondo luogo, il sesso è anche mistero e quindi anche attraverso le parole cerchiamo in qualche modo di definirlo, di descriverlo, di dargli un nome. E terzo punto, non ultimo certamente, è l'effetto della censura, perché visto che il sesso è tabù, si trovano mille escamotage per parlarne in codice a chi, come dire, vogliamo rivolgere qualche confidenza, qualche messaggio di questo genere. Dopodiché, sul fatto che prevalgano i nomi, per restare al titolo del blog, del pisello rispetto a quelli della patata, potrebbe essere un sintomo del maschilismo della nostra cultura, potrebbe essere un ulteriore effetto del fatto che il sesso maschile è più evidente di quello femminile, però c'è pure una terza ipotesi, che magari per l'uomo è un'ossessione maggiore che per la donna. Insomma, lascio aperta il campo a qualsiasi interpretazione, perché possono essere valide tutte quante. Le hai divise anche per genere, giusto? Un po' per categorie, diciamo. Sì. Se intendi dire, cioè, quelli per il sesso maschile e quelli per il sesso femminile. Sì. Ah no, le sottocategorie. Sì, certo, sottocategorie, certo. Cibi, parte naturale, vegetali, animali, insomma, ci sono i vari riferimenti. Allora, per quanto riguarda l'uomo, prevalgono le metafore di oggetto: bastone, candelotto, manico, archibugio, clava, manovella, randello, cavicchio, falce, carnese. Perfetto, hai dato un'idea, certo. E invece per quanto riguarda il sesso femminile, prevalgono i nomi di luogo, quindi posto, varco, abisso, caverna, valle, poi sto, insomma, cerco di stare un po' più sull'elegante. Grazie, Vito. Tutto ciò perché, insomma, in quelli maschili naturalmente ci sono anche un sacco di metafore, come dire, guerresche, militari, no? Sì. Archibugio, clava, che è anche un modo sia ironico che, come dire, benaugurante per quanto riguarda il rapporto dell'uomo col proprio sesso. E ci sono molte metafore di animali, non le sto a dire perché gli ascoltatori saranno già venute in mente in abbondanza. Assolutamente. Vito, dimmi una cosa, tu in questi giorni sei al mare, lo possiamo dire, hai avuto occasione di aggiornare, nel senso che comunque sotto l'ombrellone spesso, insomma, si sentono, no? Cioè lì si lascia libertà di linguaggio, hai avuto occasione di aggiornare già i tuoi elenchi o nulla di nuovo? Sì, ci sono alcuni, perfetto, che sono eccezionali. Pendolino delle 9:07, il tronchetto della felicità, insomma, ecco, ce n'è. La fantasia galoppa. Mi ha fatto l'aggiornamento in diretta. Grazie davvero Vito. E Vito Tartamella, capo redattore di Focus, ricordiamo il blog per leggere l'intera inchiesta, blog.focus.it/parolacce. Ciao Vito, buona vacanza. Ciao, grazie anche a voi. Luna di città d'agosto che sembri solamente mia, in questo asfalto posto con la gente che se n'è andata via. Luna di città d'agosto, mi piace guardarti la schiena mentre sei girata verso il mare in questa nottata serena. Va e dille che fa bene di non pensare a me, di lasciar perdere. Il vento soffia, il tempo passerà. Ferragosto strano, Ferragosto curioso, Ferragosto divergente. Abbiamo chiesto di raccontarci i vostri Ferragosto che non vi aspettavate mai, avreste pensato di passare il Ferragosto proprio lì, in quel posto, in quel luogo, con quella persona. I vostri messaggi al 349-238-6666 oppure il numero verde 800-240024 se volete intervenire in diretta. Fabio da Milano mi ha fatto molto sorridere perché dice: sono stato appena lasciato Ferragosto al mare con la mamma. È un ritorno, Fabio, va bene, mai l'avresti immaginato, invece vedi, prendi il lato positivo della cosa. 349-238-6666 vostri messaggi. E poi ci sono le storie di Mine Vaganti, lo sapete, ci piace raccontare, sì, un'Italia che sia divertente, che sia curiosa, che sia attiva, ma anche l'Italia virtuosa, quell'Italia bella, costruttiva, quell'Italia che muove le cose, quell'Italia, insomma, di cui non vergognarsi. E beh, insomma, la storia che andiamo a conoscere adesso appartiene proprio a questa categoria. Sono molto felice di poter dare il benvenuto ad Antonio Amendola. Ciao Antonio. Ciao Federico, buonasera a tutti. Tu sei fotografo, nasci fotografo o... Non nasco fotografo professionista, nasco fotografo amatore, che probabilmente nel senso letterale del termine è quello che esprime il massimo amore per la fotografia. Mi occupo di altro, mi occupo di diritto delle nuove tecnologie, ma da anni ho abbinato una passione seria per il blogging e la fotografia. Esatto, perché insomma il fotografo amatore, no? Poi si divide in due categorie: chi ama la parte di qua della macchina fotografica e chi ama la parte di là, cioè il soggetto. Tu sicuramente stai dalla parte del soggetto e questo, questa tua passione da un annetto si è concretizzata in un nuovo movimento, in un'organizzazione no profit che si chiama Shoot for Change, shootforchange.net è il sito ufficiale, che è una sorta di fotografia sociale, fotografia partecipativa. Da cosa nasce l'idea? Che cos'è di fatto? Guarda, in realtà è nata come un semplice blog inizialmente, nel quale, appunto, provenendo da un'esperienza di blogging sui viaggi, sulla fotografia di viaggi, ma parlando dei miei viaggi, ho cominciato a raccontare la storia dei grandi fotografi del passato e dell'impegno sociale abbinato alla fotografia. Poi col tempo si sono verificati alcuni eventi, tra cui ad esempio la Marcia Mondiale per la Pace e della Non Violenza, partita da Auckland, i cui organizzatori mi contattarono il mio blog chiedendo di coprire fotograficamente una o due tappe del passaggio della marcia in Italia. Io ricordo quel giorno, non potendo impegnarmi, appunto avevo degli impegni di lavoro, scrissi un post sul blog chiamato Una chiamata alle armi fotografiche, giocando un po' sull'ossimoro, no? Sì. Armi, fotografia, racconto sociale, cambiamento sociale, impegno, eccetera, eccetera, e chiedendo alla gente di darmi una mano a raccontare il passaggio della marcia. Beh, mi hanno letteralmente intasato la casella di posta elettronica e in pochi giorni abbiamo raccontato il passaggio della marcia non solo in tutta Italia, ma New York, San Francisco, fino ad arrivare in Argentina. Come vi chiamate? Anita, Valeria. Che classe fate voi? Io prima. Prima. Seconda. Oggi è seconda, oggi siamo state promosse. Oggi? Sì. Auguri, brave. Vi piacciono queste fotografie? Sì. Quale sì. Ti piace di più? Vediamole insieme, dai. Cantando, Partire dalla fotografia per cambiare le cose, questa è una delle missioni di Shoot for Change. Shootforchange.net è il sito, lo trovate già sulle nostre pagine in Mine Vaganti di Radio 24 su Facebook, con noi l'ideatore Antonio Amendola. Antonio, un sito, un portale, ci stavi raccontando che è nato con una sorta di chiamata alle armi, puntate i vostri obiettivi sulla pace, aiutatemi a raccontare questo mondo. E da lì la fotografia sociale, l'idea di istituire una sorta di collettivo di fotografi socialmente utili ha preso piede. Esatto, è stato, come spesso accade in alcune storie belle, interessanti, probabilmente di successo, meglio del previsto, nel senso che si è sviluppato in maniera assolutamente creativa e tumultuosa. Abbiamo scoperto che innanzitutto l'entusiasmo è contagioso, non solo in Italia ma in giro per il mondo, e che la creatività è contagiosa. Noi in buona sostanza diamo spazio sul nostro sito e raccontiamo attraverso le nostre fotografie e i nostri racconti tutte quelle storie che non hanno un facile accesso all'informazione tradizionale. Tutte quelle storie, e lì siamo a disposizione gratuitamente per le piccole associazioni, piccolissimi gruppetti di volontari in giro per l'Italia e per il mondo, che non hanno i mezzi finanziari per pagarsi un servizio fotografico e in questa maniera non hanno la maniera per farsi conoscere e per raccontarsi. E proponiamo un'idea di cambiamento sociale, noi lo chiamiamo chilometri zero, cioè noi cerchiamo di ispirare i nostri lettori, i nostri volontari, i nostri amici in giro per l'Italia e per il mondo a raccontare le tantissime storie di prossimità, quelle sotto casa, all'angolo di casa, a chilometri zero, per un cambiamento sociale sotto casa. Quello che facciamo, e là non abbiamo ovviamente, non ho scoperto né l'acqua calda né reinventato la ruota, mettiamo in rete sul nostro sito e sui social network queste tantissime storie piccole, piccolissime, facendole acquisire una dimensione probabilmente, speriamo, globale, ispirando altri a fare altrettanto. Certo. Antonio, insomma, tutto si regge sulla passione, sui volontari, sì, su tutte le persone che collaborano. Ci si può ancora proporre gratuitamente? Nel senso, quando tu proponi la tua cosa e dici non vogliamo niente in cambio, quali sono le reazioni? Beh, ci sono due tipi di reazioni, sono le, o meglio, anche più dura, insomma. Cioè la reazione genuina di chi davvero ne ha bisogno, e ne abbiamo incontrati tanti. Sono tantissime piccole associazioni, ripeto, e piccolissimi gruppi di volontari che aiutano dai, non so, dai senza dimora ai rifugiati, ai richiedenti asilo, le donne violate e così, e hanno davvero bisogno di essere raccontati, quindi c'è gratitudine. Poi c'è la reazione di chi un po' ci marcia, diciamo, in cui si spaccia per avente totalmente bisogno e per risparmiare i soldi di un servizio fotografico chiede un supporto. Certo. Là ovviamente dopo un po' di pratica si capisce un pochettino chi ha davvero bisogno e chi meno. E poi siamo a disposizione anche delle ONG, delle associazioni internazionali con le quali collaboriamo sul campo per raccontare le loro attività, ma là ovviamente è un discorso diverso, operiamo come altre realtà fotografiche commerciali, diciamo, ma con un orientamento al no profit, cioè tutto ciò che noi riusciamo faticosamente a guadagnare sul campo con i servizi fotografici viene usato per sostenere e promuovere ulteriori progetti sociali sul campo. Ecco, e poi fate anche corsi di formazione legati, sì, alla fotografia, proprio con questo obiettivo e questa intenzione, cioè sì, cambiare le cose attraverso uno scatto? Esatto, facciamo diversi workshop fotografici in Italia e stiamo cominciando a farli anche negli altri paesi dove siamo presenti in tutto il mondo, da Bangladesh fino al Guatemala, agli Stati Uniti, all'Africa e al Libano. E per non solo sostenere e finanziare la no profit, ma anche per sviluppare e per diffondere la nostra idea di fotografia sociale, che è un'idea di impegno in prima persona. Come dico spesso io ai nostri fotografi, per noi non è difficile entrare in una storia, è difficile uscirne, perché si crea una tale empatia col soggetto raccontato, con la storia raccontata, che si continua a fare un pezzo di strada insieme. Grazie davvero Antonio. Shootforchange.net è il sito, lì si trovano tutte le informazioni, vero, per chi volesse magari collaborare. Si trova tutto lì, l'indirizzo col quale, diciamo, proporsi come volontario e tutte le informazioni sulle storie che stiamo raccontando e che abbiamo intenzione di raccontare. Io approfitto, se mi consente Federico, certo, per non solo promuovere e lanciare una grande mostra collettiva fotografica che si inaugureremo a Roma il 16 settembre fino al 30 settembre in collaborazione con Piano B e patrocinata dalla provincia di Roma e da alcune ONG tra cui Oxfam e VIS, il volontariato internazionale per lo sviluppo, che sarà un po' una sintesi di tutte le storie che abbiamo raccontato, meglio, una selezione di storie che abbiamo raccontato dalle più piccole alle più grandi. E poi vorrei dire che probabilmente la mina vagante vera non sono sicuramente io, ma sono i tantissimi volontari in giro per l'Italia e per il mondo che hanno voglia di raccontare il loro punto di vista sulle storie quotidiane che tanti altri non raccontano. E noi siamo qui per dar voce anche a queste storie. Ciao Antonio, buon lavoro e complimenti. Ciao, a tutti i tuoi collaboratori. A tutti. Ciao. Ciao. Gli ultimi giorni rinchiusi in casa tra di noi, gli ultimi istanti, gli ultimi momenti tuoi, le ultime notti a consolare gli occhi tuoi. Poi chissà chi dormirà con te. Se ti mancherà il mio caffè, chissà se hai spento la TV. Chiederò al tempo. E ora davanti un'altra vita, beh, almeno sia diversa da quest'ultima bugia. Ma se vuoi parlare, ti lascio le chiavi di casa mia. E sia. Lui si chiama Soltanto, è un artista, è un musicista, sotto categoria musicista di strada, così amano definirsi, così si chiamano, così sono busker, insomma, che ci piacciono. E Ovunque sei è il progetto che parte proprio ora, parte in questi minuti, parte adesso in diretta su Radio 24. Abbiamo fatto una sorta di adozione a distanza per dare il via a questa storia che comincia. Ci troviamo a Santa Sofia in provincia di Forlì. Lì c'è il Festival dei Busker. Sei lì soltanto? Hai già. Eccomi. Sì. Okay. Com'è ascoltarsi in radio? Perché è un inedito questo, vero? Me l'hai mandato sì, prima. È una canzone mia, e non è mai passata in radio. Insomma, sentirla in diretta così per telefono fa. C'è una roba tutta la pancia strana, insomma, non capita tutti i giorni. Sai che, insomma, davvero tutti noi abbiamo incontrato, no, i musicisti di strada, poi difficilmente ti fermi a chiacchierare, sì, li ascolti, sì, insomma, è proprio un po' un usa e getta, no? Una toccata e fuga, si passa, si butta lì un po' l'orecchio, poi si prosegue. Com'è dall'altra parte? Nel senso, tu sei lì che suoni, te ne accorgi di chi cammina, te ne accorgi di chi si ferma, riesci a instaurare un rapporto che va al di là di quell'istante musicale? Guarda, lì in strada sei veramente su, almeno io sono, quando sono davvero su un altro pianeta, nel senso che ho la situazione chiaramente sì, tutto sotto controllo, però mi sento in una sorta di trance. Quando mi chiedono appunto amici così di provare a raccontare che cosa si prova, che cosa può essere avvicinato quel momento, io rispondo che è molto più vicino a una, come dire, a stare sopra un palcoscenico di teatro che non a un palcoscenico invece di un locale, perché sei proprio in mostra davanti a tutti, e la musica diventa più una colonna sonora, in strada diventa più una colonna sonora della tua storia, di quello che sei tu che stai mostrando alla gente. Quindi è proprio, come dire, un altro mondo. Ecco, però scusa, lì. Adesso... Però, no, dimmi. Ecco, però per, come dire, riuscire a instaurare un rapporto con chi passa, io lascio il mio disco a offerta libera, sempre, con tutti i miei contatti, con la mia pagina Facebook, con la mia mail, i miei indirizzi, e quindi poi dopo, magari non in quel momento, però ricevo tantissimi messaggi, da parte delle persone che passano, che siano turisti, che siano abitanti della città, che poi tornano a sentirmi. Quindi di rapporti in realtà se ne creano tantissimi, davvero. Mm-hmm. Quindi insomma è qualcosa che continua al di là di quel momento. Sì. Assolutamente, ecco, però non avrebbe quasi senso per me. Però adesso facci entrare un attimo nella tua testa. Io magari sono il turista medio, mi fermo lì, ti ascolto anche per 10 minuti buoni, faccio anche l'applauso e poi vado via, ma senza neanche darti un euro. E tutto questo l'hai visto, te ne sei accorto perché mi hai tenuto d'occhio. Sì. Cosa pensi? Cioè lì dentro alla tua testa qual è la frase che esce? Faccio un sorriso nel senso che... comunque qualche cosa ha preso e comunque qualche cosa gli ho dato, e se lo facessi solo per lavoro, per professione, non avrebbe senso. Quindi il senso di lasciare il mio disco Offerta Libera nasce proprio da questo, cioè tu puoi lasciarmi anche una caramella, è un regalo che ci facciamo, se per te ha un prezzo in denaro puoi darmi del denaro, se no tante volte qualcuno mi ha lasciato... Dei pupazzetti fatti con dei palloncini in cambio del disco, piuttosto che dei lecca-lecca, una volta anche un preservativo. Era un invito quello? No, perché me la... Ah no, sì, vero, me l'ha lasciata una ragazza, è vero, sì, ecco. forse era un invito, però non l'ho colto. Insomma, questa è la strada, quindi è il bello, no? È il bello anche del cogli l'attimo, è il bello anche dell'imprevisto, perché la strada è imprevisto. Assolutamente. Allora, soltanto direi, visto che sei lì, sei in strada, al festival credo che il tutto inizierà tra un'oretta forse, lì a Santa Sofia. Sì, tra poco con me, adesso stiamo facendo un po' di check in giro, vedo alcuni circensi che stanno montando, palcature della Madonna, è veramente suggestivo. Perfetto, qua. Allora tu prepara la chitarra perché avrei chiudere la prima parte della puntata con un tuo live lì dalla strada, possiamo fare un assaggio. Okay, quindi inizio. Io per quanto riguarda i contatti eccetera li lascio adesso, li lascio dopo? No, lasciamo dopo, facciamo tutto dopo. Perfetto. Ok, perfetto. Dai, ciao. A dopo, grazie, ciao. Bella che così fiera vai, non aspettare mai, cogli la prima vena, cogli la prima vena, cogli la prima vena, danzala la vita tu, al ritmo del tempo che va, ridila la tua allegria, cogli la prima vena. Perché? Perché Branduard, vi starete chiedendo anche oggi, intanto perché è il tormentone, in ogni puntata noi almeno un pezzo di Branduardi, perché lo sapete, basta mettere una parola in Google ed esce una canzone fatta da Branduardi, ma oggi insomma era credo la colonna sonora migliore per introdurvi il prossimo ospite. Lei sì che è una Mina Vagante, nel senso una vita dedicata a una passione. La passione non è tanto la ricerca di quella prima mela, ma la passione è la ricerca dei frutti persi, dei frutti dimenticati, dei frutti di cui qualcuno ha scritto, frutti che in passato sono stati assaggiati ma che non si trovano più, non solo nei negozi ma magari neppure nei libri, ma invece cercando, andando in quel giardino, in quel cortile o magari facendo una chiacchierata con quel contadino, quel frutto si ritrova. Stavo sfogliando martedì 9 agosto il giornale dell'Umbria, sapete la mia passione per i quotidiani locali, e leggo un titolo: la smemoratezza dei politici e il sapore amaro della merangola. E per capire che cos'è la merangola, c'è qui la persona che la merangola l'ha ritrovata. Do il benvenuto a Isabella dalla Ragione. Ciao Isabella. Grazie a voi, benvenuti anche a voi, grazie. Allora, prima di raccontare tutto quello che fai, facci assaggiare radiofonicamente questa merangola. Che cos'è? La merangola in realtà è un nome, è il nome popolare dell'arancio amaro, che è un frutto molto utilizzato attualmente come porta innesto dell'arancio dolce, cioè come piede dell'arancio dolce, ma in realtà in passato era molto utilizzato per la sua ricchezza di oli essenziali nella buccia e per il suo sapore particolare, amaro ma in maniera molto molto era saporito, era particolare, dunque veniva utilizzato moltissimo nella cucina. Mm-hmm. Ecco, e tu dove l'hai ritrovato? Ma in realtà è stato un ritrovamento diciamo abbastanza fortuito, perché di fatto io abito in una zona dell'Umbria dove ovviamente non ci sono i mirangoli, non ci sono gli agrumi, perché è una zona fredda, mentre invece nella parte sud dell'Umbria, quindi nella provincia di Terni e zone limitrofe, in realtà il clima è leggermente più dolce, più mediterraneo, e dunque in tutti i giardini, gli orti, piccoli orti riparati, c'era e ancora si trova questa pianta della merangola. Era proprio quasi un patrimonio familiare, tutti avevano la merangola e quindi ancora si trovano queste straordinarie piante, perché poi è una pianta veramente, oltre che essere, come dire, produttiva e ricca, è una pianta anche molto ornamentale, se ci pensate, perché porta nello stesso momento i fiori, i frutti dell'anno e i frutti dell'anno precedente, quindi è il massimo dell'abbondanza e della bellezza. Certo. Isabella, insomma, grazie intanto per l'abbiamo gustata, sai, questa merangola, sei stata brava. E torniamo a te, insomma, e tu vivi in questa tenuta che è una sorta di arca di Noè dei frutti, vero? Perché da anni prima tuo padre ed ora tu, insomma, portate avanti questa attività di archeologia arborea. Questo è un po' il nome scientifico che vi siete scelti? Beh, non è il nome scientifico, è il nome che noi abbiamo scelto proprio per evocare il tipo di lavoro che noi facciamo, perché è un lavoro paziente, anche partendo da piccole cose, da piccoli ritrovamenti, proprio come fanno gli archeologi. Nel nostro caso noi ci occupiamo e ci siamo sempre occupati, come Livio ha cominciato e poi io ho proseguito, ci siamo occupati di queste vecchie varietà locali di piante da frutto, come dicevi all'inizio, di frutti che di cui nessuno si voleva più curare, che erano stati abbandonati, di cui nessuno sapeva più nulla, che non venivano più utilizzati. Dunque noi abbiamo in qualche modo accolto questi frutti che erano quasi scomparsi, e l'abbiamo, come dire, riaccolti in un frutteto, sì, che è appunto il frutteto che è qui a San Lorenzo di Lerchi, che è una frazione del comune di Città di Castello. E dunque questo luogo è diventato, sì, un'arca di Noè, ma insomma un frutteto, un luogo di accoglienza di queste piante che erano quasi abbandonate. E quante specie sono? Allora, le specie sono le specie tradizionali, cioè le specie sono le mele, le pere, le susine, sì, le ciliegie, le mandorle e quant'altro. E ognuna di queste specie, in ognuna di queste specie abbiamo molte varietà, quindi in tutto sono circa 450 piante di, diciamo, 150 varietà diverse nelle singole specie. Fantastico, insomma, c'è da perdersi, ma è visitabile? È visitabile, diciamo che le persone che vogliono venirlo a vedere devono chiamarmi, c'è un sito internet che può essere consultato, dove ci si ritrovano appunto le varietà che noi abbiamo in conservazione e le varietà che noi coltiviamo, e i tempi e i modi delle visite che si possono fare. Dunque questo è il modo migliore, diciamo, per informarsi sulla nostra attività. Perfetto, abbiamo già pubblicato il link sulle nostre pagine in Facebook, archeologiaarborea.org. Isabella, dacci un'anteprima oppure confessaci un sogno. Qual è il frutto che stai cercando e non hai ancora trovato? In realtà ce ne sono ancora molti, fortunatamente, da ritrovare e di cui confido appunto il ritrovamento. Io non dico mai, non si ritroverà mai, io spero sempre. Sto cercando da tanto tempo un fico, che è il fico rondinino di Sansepolcro è una cittadina qui vicino a noi, già toscana ma molto vicina, ed era un fico mitico probabilmente, e io lo sto ancora cercando, non l'ho ancora ritrovato. E poi dei ritrovamenti che possono essere appunto delle una mela a polpa rossa, sì, che una volta c'era, che era la polpa, una polpa proprio rossa, come il peperone, insomma. E questa, ho trovato delle cose simili, ma forse non è quella che io sto cercando. Okay, ecco, scusa, ma la ricerca non si ferma mai. Assolutamente no. Ma e l'archeologa arborea cosa fa? Entri di nascosto nei giardini? Cammini perdendoti, sperando di trovare quella mela, o comunque ti muovi, parli con gli anziani, cioè sono queste le strategie. Quello, diciamo, è un lavoro paziente, quasi come un puzzle. Sì, io cerco ovunque, non è che mi fermo, sì, naturalmente i vecchi poderi abbandonati, i vecchi conventi di clausura, i giardini delle vecchie ville, ma anche tanta ricerca negli archivi, per esempio, nelle antiche riproduzioni, negli antichi quadri, ma a volte si trovano delle informazioni laddove non ci si aspetta. Infatti, per esempio, io ho trovato delle informazioni su una pesca che io cercavo di ricostruirne, sì, l'aspetto. Ho trovato delle informazioni in un libro di un musicista, ecco, per dire come spesso, appunto, la ricerca infatti è straordinaria proprio per questo, perché a volte è sorprendente. Il caso e il caos sono due grossi aiuti. molto come? No, il caos e il caso aiutano, insomma. Sì, indubbiamente. Questo gli archeologi lo sanno bene, quanto i più straordinari ritrovamenti sono legati al caso e anche alla fortuna. Assolutamente. Grazie davvero, Isabella. Grazie archeologiaarborea.org. Al prossimo ritrovamento, ok? Grazie a tutti voi. Ciao, ciao. E noi torniamo al volo a Santa Sofia, al Festival dei Basker. Con noi soltanto, col quale chiuderemo questa prima parte di puntata, questa prima parte di Mine Vaganti. E soltanto, prima di intonare il pezzo, dacci tutte le dritte per chi volesse seguirti nelle prossime settimane durante il vostro progetto. Va benissimo, grazie Fede. Allora, la nostra pagina Facebook ufficiale è www.facebook.com/ovunque6, mentre quella personale mia è /soltanto. E poi volevamo così dire a tutti quelli che sono in ascolto, chi avesse voglia di raccontarci la sua storia, fosse nelle vicinanze, volesse darci ospitalità, eccetera, può scriverci all'email che è info@ovunque6.net. Ok, tutto ciò l'abbiamo già pubblicato anche sulle nostre pagine di Facebook di Mine Vaganti, in modo da fare un bel intreccio. Insomma, è un'adozione. Perfetto. Quindi vogliamo che sia ben fatta. E okay, soltanto, dai, dacci il sapore della strada, dacci il sapore del basker per un minuto. Radio 24, va è bene, tutta tua e della tua chitarra. Ci proviamo, dai, ciao. Ciao. Un esperimento, è un live dalla strada, ecco. Sempre più spesso, quando mi manca quel posto, incontro strada non ero solo mai, e prendevano vita i sogni miei, così lì con la sera che organizza le feste, con due birre per strada, e la notte che va. È la strada, è il sapore, è il live, soprattutto è lo sguardo di Valeria Bernardi dall'altra parte del vetro, che mi dice che è anche meglio, vero? È un esperimento, su, è un basker. E con questo accenno di pezzo di Soltanto chiudiamo la prima parte di Mine Vaganti. Ci ritroviamo però subito dopo il GR con Davide Riondino, con la cronaca locale, con il collegamento dagli States con Alex Bellini. A fra poco. Mine Vaganti. Ancora buona domenica da Federico Taddia, ancora un'ora insieme con Mine Vaganti. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure Ci trovate nei Facebook, facebook.com/minevaganti, le nostre pagine che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. E adesso facciamo il nostro viaggio all'interno della cronaca locale che sfogliamo settimanalmente, andiamo alla ricerca delle notizie un po' più bizzarre, curiose, divertenti, cerchiamo i protagonisti, poi le commenteremo anche insieme a David Riondino, ma non solo, Alex Bellini, fra pochissimo ci collegheremo con lui per l'ennesima tappa della sua lunghissima corsa ai 5.000 chilometri della Los Angeles, New York. Se avete domande, volete fare queste domande in diretta, ripeto il numero per i vostri sms 349-238-6666. E entriamolo, partiamo con la cronaca locale, con un articolo che abbiamo trovato proprio oggi sulla nuova di Venezia e Mestre. Allora, forse abbiamo anche la colonna sonora adatta per questo. Vi leggo solo il titolo, Carolina, mucca in fuga da 2 mesi, si è rifugiata nell'Oasi e nessuno riesce a prenderla. Un metodo più semplice non c'è, grazie allo yololololo. Le mucche sono qua davanti a me. Con l'ipnosi affabile e si prende le più belle, solo quelle la cui taglia è una sì, ogni mucca viene via, non torna più. Grazie al e si scherza e si gioca un po', è Ferragosto, insomma, anche queste notizie, tra le tante notizie drammatiche che contornano, non solo che fanno, che riempiono le pagine dei nostri quotidiani, ogni tanto anche così, una ventata di leggerezza, come la ventata di leggerezza che ha portato Alessandro Ragazzo, giornalista della Nuova, che abbiamo trovato sotto l'ombrellone e lo abbiamo invitato perché volevamo capire come è nato questo articolo. Ciao Alessandro. Ciao a te Federico, buonasera anche a tutti i tuoi radioascoltatori. Immagino sia il tuo primo reportage, la tua prima inchiesta su una mucca. Sì, in effetti una cosa del genere non mi era mai capitata sinora, comunque vabbè, insomma, siamo riusciti a scrivere anche questa, va? Allora, raccontaci un po' la storia che vede questa mucca protagonista e che le ha permesso di guadagnarsi anche uno spazio sul quotidiano. Un paio di mesi fa io avevo scritto un articolo dove si diceva che c'era una mucca che era scappata e vabbè, insomma, sembrava che fosse stata ritrovata. In realtà invece la scorsa settimana sono venuto a sapere che questa mucca non è mai rientrata alla fattoria. Allora mi sono un attimo interessato, sono riuscito a risalire al proprietario, che mi ha raccontato insomma un po' questa storia che francamente insomma fa davvero ridere. Poi è molto vicina alla storia di un'altra mucca che avevo comunque segnalato nel mio articolo, sì. Una mucca Yvonne che è da 3 mesi desaparecidos in un bosco della Baviera, e dunque insomma abbiamo messo assieme queste due cose e sono riuscito insomma a tirar fuori questo pezzo un po' di colore in una giornata insomma di Ferragosto dove sì. Magari una risata, appunto, come hai detto tu prima, i tuoi radioascoltatori sotto l'ombrellone ci può anche stare. Mm-hmm. E nello specifico, questa mucca era stata comprata dal suo proprietario ha un paio d'anni, sì. E ovviamente serve per l'allevamento, insomma. E ad un tratto questa mucca è scappata nell'oasi che c'è lì vicino e non sono più riusciti a ritrovarla, non sono più riusciti o comunque a prenderla, perché il proprietario mi ha segnalato che riescono a vedere i movimenti però non riescono ad acciuffarla. Lei è brava a non farsi prendere e se ne sta lì in questa oasi che ha una superficie di 60 ettari, dunque insomma anche molto grande, e insomma ci hanno provato in tutte le maniere. C'è il rischio purtroppo che possa essere anche abbattuta, però si sta facendo il possibile perché questo non avvenga. Ok, tu alla fine hai consigliato di mettere in campo anche un toro? Ma guarda, lo spunto è arrivato proprio dall'iniziativa che stanno portando avanti i tedeschi, perché i tedeschi per prendere queste Yvonne avevano già provato con la compagna di stalla, chiamiamola così, e il vitellino, però non ci sono riusciti. Adesso stanno provando a mettere in campo questo toro che si chiama Ernst, sì. Per riuscire a capire se riescono a prenderla. Ma può essere una soluzione anche qui per Salzano, insomma, magari se riuscissero, se magari ci fosse qualcuno magari non voglio dire che lancio appello, però se magari ci fosse qualcuno, non so, che magari avesse un'idea per riuscire a trovare questa mucca, potrebbe essere anche un'idea. Mi segnalano appunto dall'altra parte della regia che è un caso di mucca vagante, che quindi va benissimo per il nostro programma. E sì, Alessandro, un po' fuggiasca. Esatto. Noi amiamo anche conoscere il dietro le quinte, soprattutto quando, sì, quando chiacchieriamo con i giornalisti di sì, della cronaca di provincia. Ecco, intanto, cioè, tu come hai saputo la notizia? Te l'ha segnalata l'allevatore in persona? Ti ha contattato proprio? No, se devo essere sincero, lui voleva proprio stare lontano da questa storia. Sì. Tant'è che lui, insomma, teme che ci possano essere anche dei problemi o altro. Anche perché questa mucca è vicino a un'autostrada, l'autostrada del passante. Ok. E dunque, certo, insomma, ci potrebbero essere anche problemi nel caso in cui questa mucca decidesse di andare a fare un giro anche al di fuori di quest'oasi. Questa è una storia, insomma, che è uscita un po', diciamo, tra colleghi e un po' anche i chiacchierici del paese, cioè ascoltando, sentendo le altre persone, viene fuori questa storia, qualcuno te la segnala, ti informi, ci lavori. E poi, insomma, salta fuori la notizia. Poi un po' alla volta io sono riuscito a rintracciare il proprietario andando proprio nella zona attorno a quest'oasi. Suona un campanello di qua, suona un campanello di là, alla fine mi hanno segnalato che c'era questo contadino che ha delle bestie, che ha delle mucche. Mi ha detto: guarda che potrebbe essere lui la persona che ha perso questa mucca. E sono andato lì ed era lui. Fantastico. E a quel punto, e questa è la prima fase, la seconda, sei andato dal tuo capo redattore e hai detto: guarda, c'è la storia di una mucca. Sì, poi ovviamente in redazione sapevano già di questa storia. E ieri, quando insomma è uscita la possibilità di farci questo pezzo, tutti erano entusiasti, ovviamente in redazione. Io stesso mi sono anche divertito a scrivere le mie righe, anche perché insomma mi immaginavo un po' questa situazione, io un po' anche l'ho romanzata e ho cercato di fare anche, insomma, di viaggiare un po' con la fantasia, ecco, perché insomma mi sembrava giusto. Dopo tutto, questa storia merita soltanto di essere raccontata così, in maniera molto, molto, diciamo, banale, da sotto il sole, anche se poi ovviamente c'è un dramma, diciamo, alle spalle, perché questo contadino insomma ha perso. Insomma, non riesce a ritrovare questa mucca, e lui l'aveva pagata, dice, sì, ovviamente per il latte e per la carne. Adesso speriamo che riesca a riprenderla, continuerò a seguire questa storia. Bravo, esatto, ti stavo dicendo, tu rimani sulle tracce della mucca e vedrai. Magari chissà che nelle prossime settimane la storia non possa avere una svolta, speriamo positiva. Ci sarà sicuramente un aggiornamento, grazie davvero Alessandro. Ti aggiornerò. Siamo qua, grazie davvero, ciao. Grazie a voi, buon proseguo. Siamo fatti accompagnare da Mango per la prossima storia, ancora la cronaca locale, anche se in questo caso una cronaca locale che ha esondato, perché anche alcune pagine dei nazionali hanno riportato la notizia. Il Gazzettino intitolava: piramide miracolosa sui Colli Euganei, è abusiva, la vogliono radere al suolo. Il Giornale di Vicenza diceva: Colli Euganei, lite sulla piramide di luce, ricorso al TAR contro la demolizione. Ancora il Mattino di Padova: Monte Venda, presidio per la piramide, rinviata la demolizione, ma arrivano i carabinieri. Insomma, sui Colli Euganei è sorta da un giorno all'altro questa strana piramide, alta 7 metri, larga altrettanto. Qualcuno si è chiesto: ma cos'è? È abusiva? È legale? Cosa succede all'interno di quella piramide? E beh, insomma, per capirci di più abbiamo invitato Mauro Lando, che è il presidente Associazione Piramide di Luce. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Buongiorno. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Mauro, insomma, non so da dove partire, nel senso dalla piramide, dall'abusivismo, dal vostro movimento, come vi definite? Una religione, una setta, un'associazione spirituale? Semplicemente un'associazione che al suo interno ha diverse persone che hanno interessi in comune. e che grazie a questi interessi hanno per esempio costruito la piramide per poter far accedere altre persone che hanno interessi simili a fare le pratiche che riteniamo utili per noi. La nostra è un'associazione che ha come indirizzo il benessere psicofisico dell'uomo, l'interazione dell'uomo con la natura. Ok, e perché avete bisogno di queste piramidi? Ma questa piramide è una struttura energetica, è una struttura che già per la sua forma nella storia è risaputo che la forma della piramide è un catalizzatore energetico, quindi viene convogliata all'interno della piramide in maniera molto più evidente che nell'aria libera o in altre forme, l'energia cosmica, l'energia terrestre. Questo noi conosciamo nell'immaginario comune, è più evidente forse il collegamento con le piramidi egiziane o quelle Maya. Certo. Ma in realtà piramidi al giorno d'oggi ce ne sono moltissime in tutto il mondo, con degli usi più svariati. Basta digitare su internet, mi ricordo che abbiamo riscontrato una piramide in Bielorussia appoggiata da studi, se non sbaglio, di eminenti scienziati, la quale è stata utilizzata per aumentare la produzione di petrolio di un pozzo di petrolio. E hanno riscontrato un aumento, messa su sopra il pozzo, un aumento del 20% di produzione. Ok, quindi voi credete, insomma, nei poteri, tra virgolette, che ha questa piramide per il benessere fisico, siete questa associazione, e quante persone siete? Attualmente nel 2011 siamo circa 700 soci. Ecco, ma e questa piramide per voi è una sorta di luogo di culto? No, è un luogo energetico. Okay. È come mettersi, per altri motivi, sotto una lente di ingrandimento, no? Uh-huh. Si convogliano i raggi. In questo caso la piramide convoglia energie. Queste energie poi vengono utilizzate a discrezione della persona per i suoi scopi. Ok, e come mai che è nata sui Colli Euganei e soprattutto non potevate chiedere il permesso per costruirla? Sì, allora, è nata sui Colli Euganei perché i Colli Euganei sono un ambiente geologico molto particolare. Ci sono sostanzialmente due energie che vengono convogliate all'interno della piramide, quella cosmica e quella è catturabile in qualsiasi punto della Terra, e quella tellurica, quella terrestre. I Colli Euganei sono dei colli mai esplosi, quindi da un punto di vista geologico hanno un'energia molto forte, molto interessante. Ecco che quella con la componente terrestre è molto più evidente che se avessimo fatto la piramide in altre zone, ovviamente. Ho capito. Da un punto di vista invece del presunto abusivismo, eccetera, in realtà il manufatto oggetto di concessione non è la piramide, in quanto dal nostro punto di vista era la piramide è il contenuto di una costruzione che doveva essere fatta e che ci hanno impedito di fare. Okay. La piramide non è infissa al terreno, è semplicemente appoggiata anche per questioni prettamente energetiche. Mm-hmm. Per esempio non ci sono fondazioni, non c'è nessun tipo di cemento o di metallo né sotto né all'interno della piramide. No, E quindi dal nostro punto di vista la concessione che siamo andati a richiedere è per un manufatto, per una costruzione che doveva contenere la piramide. Mauro, ci sei? Scusa, stiamo perdendo la voce, non so se ti sei allontanato. Sei lì? No, io sono sempre perfetto, sempre perfetto, eccoti. No, appunto, ci stavi spiegando della concessione e che insomma, secondo te è tutto in regola? Diciamo che noi abbiamo richiesto una regolare concessione per un edificio che doveva contenere la piramide. Non solo, questo edificio doveva essere eretto al posto di circa, mi sembra di ricordare, perché io non sono il proprietario, sono il presidente dell'associazione che ha in affitto il terreno. Il proprietario ha demolito circa 450 metri quadrati di baracche che utilizzava per le sue attività agricole, e al cui posto doveva essere fatto questo edificio che ne occupa, la piramide adesso occupa 49 metri quadrati, l'edificio doveva occuparne poco di più, circa 50-60 metri quadrati. Ok, ma non sarebbe stato un edificio a punta, non sarebbe stato sicuramente una piramide sul Colle Euganeo, immagino. Infatti era un edificio rurale, e spero sarà un edificio rurale, al cui interno c'è la piramide. Ovviamente la piramide, per le sue tecniche costruttive, non può essere fatta dopo introdotta, doveva essere fatta prima. Ma l'oggetto di concessione che siamo andati regolarmente a chiedere è l'edificio che deve contenerla. E tra l'altro non si tratta, adesso io non so i termini tecnici, sì, ma se per abuso si intende un qualcosa di costruito di sana pianta e non esistente, non si tratta di abuso, ma di riutilizzo di volumi di superficie già preesistenti in maniera molto più abbondante e molto più fatiscente, tra l'altro. Uh-huh. Cioè c'era una richiesta da parte del parco al proprietario di demolire tutte quelle baracche e di accorparle, anche per un discorso proprio di impatto ambientale. Oh, capito. Però Mauro, scusa, a te adesso ti interessa tutto il discorso... Scusami, ma non ho sentito la domanda. No, ti interessa molto il discorso energetico, un po' meno quello dell'impatto ambientale. Certo, certo. Quindi, insomma, ma ne avevi costruite altre di piramidi o è la prima piramide che costruisci? No, questa noi direttamente è la prima che costruiamo. Perfetto. È sempre aperta? Noi siamo aperti nei weekend, perché è un gruppo di volontari e quindi durante la settimana lavoriamo e siamo aperti tutti i weekend. Perfetto. E quindi anche oggi, cioè in questo momento sei lì alla piramide? Io no, ma ci sono altre persone dell'associazione che sono lì e domani saremo lì in molto più persone, tra l'altro. Abbiamo una festa in programma con tutti i soci. C'è il Ferragosto lì, insomma, sui colli. Sì, una festa di condivisione gratuita, aperta a tutti i soci, in cui... E tutti possono condividere le proprie opinioni sulle materie che ci interessano, che danno in comune, diciamo. No, ho capito. E come finirà? Verrà abbattuta, secondo te? Io spero proprio di no, perché è di interesse comune, di interesse sociale. E l'assurdità è che potrebbe essere che, speriamo proprio di no, che venga abbattuta e che subito dopo ci rilasciano il permesso di costruire l'edificio e al cui interno potremo costruire la nostra piramide. Che è un controsenso burocratico, voglio dire, non ha a che fare con i diritti e con, ho capito, e con i motivi dell'esistenza. Quello che non capiamo, sinceramente, è quello che a noi sembra un accanimento, perché il tutto è avvenuto con estrema velocità, non ci è dato la possibilità, sembra, di andare a un regolare processo, ma addirittura sono arrivati volendo abbatterla senza tutte le autorizzazioni, di fretta e furia. Però Mauro, insomma, ma scusa, però siete all'interno di un parco, avete costruito questa cosa da un giorno all'altro, un po' di... no? Cioè, non è costruita da un giorno all'altro e ne abbiamo parlato con il parco prima di costruirla. Ah ok, però tenendo nascosto che... Non abbiamo tutte le regolari concessioni, perché secondo noi quell'oggetto non era, okay, l'oggetto di concessioni in quel senso. Va bene, insomma, questa è la tua posizione. Grazie comunque, Mauro, per essere stato qua con noi. E abbiamo messo sulle nostre pagine di Mine Vaganti anche il sito per chi volesse saperne di più comunque di questa associazione Piramide di Luce. Noi continuiamo a commentare la cronaca locale, lo facciamo con David Riondino, ma per presentarlo vi facciamo ascoltare una canzone che ho trovato, credo, una sua ospitata da poco sulla 7, una canzone dedicata ad Anita Garibaldi. Bella come un'idea che diventa vera, Anita Garibaldi, la guerrigliera, guardala attraversare le nostre strade, innamorata giovane, l'italiana, la libertà più bella e la più lontana. Guarda come sorride dietro la spada, Anita Garibaldi, la partigiana. David Riondino, a Mine Vaganti. Ciao David. Come stai? Ciao, come te? Sento Anita Garibaldi, ma guarda, hai trovato Anita. Sì. È divertente per le canzoni in 6 strofe che sono riusciti per necessità di tempo a ridurre a 3 strofe quelli della 7 con un'ingegneria fantastica, perché hanno tagliato all'interno di ogni gruppo di 2 strofe facendo un miscuglio inenarrabile, riuscendo alla fine a tirar fuori lo stesso una progressione armonica. Interessante. Davide, comunque sono d'accordo io, guarda, il signore ha ragione, perché in fondo no, anche gli egiziani hanno messo questa piramide nel deserto in un paio di giorni, no? E poi gliele fanno togliere, no? È senza... giusto mettere le piramidi nei posti, come no, dove si ispira, no? Io un deserto non lo vedo senza piramidi, così anche un parco dovrebbe avere la sua piramide. Ok, Davide Stelli, un minuto la pubblicità, poi torniamo con la cronaca locale commentata da te. Mine Vaganti. Eccoci qua con Davide Riondino. Davide, tante notizie di questa bella Italia da sfogliare. Partiamo dalla Toscana, così giochi in casa, va bene? Io non sono preparato, oggi sono sceso da un treno, ho preso un treno, non ho guardato neanche il giornale, l'ho detto, quindi vabbè, facciamo l'esercizio di divinazione attraverso le notizie di cronaca. Assolutamente. Partiamo da Volterra, questa ti piacerà. Aruba i sacchetti per i cani perché vengono usati anche per il pane. Ci sono l'associazione... I sacchetti, quelli famosi che si usano, quelli per cui i cani ci guardano stupefatti. Esatto. Non hanno mai visto a memoria di quadrupede dei bipedi raccattare le loro cacche. Bravo, no? Bravo. Ci considerano degli esseri inferiori perché li seguiamo mitemente raccogliendo i loro escrementi. È un'antica usanza etrusca che veniva fatta dai tempi proprio da Porsenna, sì, il quale usò uno stratagemma simile dando questi pacchetti all'avversario, ai nemici, quelli di Volsci, capito? Dicendogli guardate, sono i pacchetti per il pane, invece dentro c'era la traccia dell'escremento dell'animale e quelli di Volsci morirono tutti avvelenati. Ho capito, sono antiche usanze che vengono riproposte, però esattamente, sì. fa strano, e questo è anche l'attacco del pezzo, pensare alle lasagne messe in frigorifero dentro al sacchetto per il cane, questo proprio dice il giornalista, in effetti insomma gli diamo ragione. Però fa strano fino a un certo punto, non so se tu hai... consumi abitualmente dei cibi pre-scatolati e compagnia bella, insomma si tratta di quelle cose, ma c'è quest'eco appunto escrementizio spesso c'è. È il discorso sull'escremento come elemento di gusto, è un discorso che con la povertà di ritorno ritorna a essere presente nel nostro orizzonte gastronomico. Ho capito. Corriere della Sera, le pagine di Milano di oggi, il titolo in prima pagina: paga la cocaina con i ticket restaurant. Arrestato. Questa è la crisi, vero? La crisi, soprattutto anche però la grande vocazione sociale di Milano. Cioè, Milano è una città che è stata sempre trascurata, ultimamente era caduta in un abisso, diciamo, di consumismo maldestro, era arrivata seconda dietro a Roma, invece adesso con Pisa Pia, va bene? Sì. Si rimette in linea con l'Occidente e dimostra la sua vocazione anche popolare democratica, cioè questa parte della cocaina, se non hai soldi è giusto usare anche i ticket del ristorante, gli vengono dati così a una cifra più bassa, quindi c'è tutto un tentativo di ottimizzare i bisogni che fa parte della cultura socialdemocratica. Ho capito, mi piacciono le tue letture perché sono sempre alte, quindi ci permettono di capire cose che a noi umani invece non avevamo capito. Sì. La nuova Sardegna, Alghero, questo è il titolo: inseguimento del cane in pista, l'aereo parte 2 ore dopo. Questo l'articolo dice: oddio, c'è un cagnolino sulla pista. Era il suo. Una signora in partenza ieri da Milano per una vacanza ad Alghero, dall'oblò dell'aereo che si stava preparando al decollo, ha visto un cagnetto che correva sulla pista. Ha dato l'allarme e si è subito accorta che era qualcosa di familiare. Era il suo cane che era scappato dalla stiva. Certo, infatti, questa è anche una metafora, tu devi sempre leggere anche in altro senso. Cioè, c'è questo desiderio infinito dell'animale di liberarsi da questa donna, no? Sì. Era già stata lasciata dal marito e da altri per altri, non insopportabile, e che è riuscito finalmente a fuggire dopo un piano lungamente elaborato, parlando con altri suoi animali, amici portati negli aeroplani, come scassinare una plancia dall'interno e via dicendo, riesce ad andare, ma addirittura sua padrona, travestita da aeroplano, riesce a muovere un aeroplano minacciandolo e inseguendolo per tutto il campo. L'ineluttabilità della condizione di servo e di padrone, il destino che ti incatena a un dominante, quindi in fondo una tragica, una terribile storia d'amore, dell'impossibilità di liberarci di chi ci governa, di chi ci domina, di quello che ci ha dato l'imprinting. Fantastico. Una riflessione molto molto complessa questa, però molto drammatica. Sì, infatti l'abbiamo fatta nostra. Le prossime due notizie invece sono di due quotidiani locali, una è la Gazzetta di Modena e una è il Piccolo, quindi siamo anche in due zone abbastanza diverse tra di loro, ma di fatto con la stessa notizia caduta lo stesso giorno, ma in due luoghi diversi. Il primo è Gazzetta di Modena: tinta sbagliata dalla parrucchiera, interviene la polizia, perché la cliente non era contenta del colore dei capelli, quindi ha chiesto immediatamente l'intervento della polizia, mentre il piccolo di Trieste, acconciatura non gradita, bloccata nel salone. Si rifiuta di saldare il conto e la parrucchiera l'ha chiusa nel ripostiglio. Questo è un dei suoi paradossi che sono delle spie molto interessanti del moderno. Cioè, di fatto, il cliente, in un mondo che è concepito come mercato, sì, avendo sempre ragione, esige da chi dà una merce un esito e un risultato che vanno al di là della professionalità e della creatività del singolo lavoratore, cioè del parrucchiere, via dicendo. Quindi questo crea questi inceppi. Un tempo non sarebbe successo così. È come se una vittima sacrificale protestasse perché gli tagliano male, va bene, una gamba, oppure perché viene strappato male il cuore. L'attività di andare dal parrucchiere ha un kit di sacerdotale. Pittura dei capelli non è una cosa qualsiasi. Il taglio modifica la tua estetica. Quindi questi sono dei piccoli sacerdoti in qualche modo. C'è come un rifiuto del sacro in queste persone che bloccano l'officiante, il parrucchiere, nella sua attività profondamente, diciamo, religiosa, profondamente spirituale. Perfetto. E quindi non è bello, è un sintomo di laicizzazione con il quale io non sono d'accordo. Bisogna difendere i sacerdoti che sono i parrucchieri. Tu guarda quanta gente, volgi lo sguardo intorno. Sì, certo. Guarda intorno e vedi quante vittime dei parrucchieri ci sono. Anche quello è vero. queste nuche rasate, questi ciuffi in cima, cose straordinarie. Sì, sì. Hanno cose in sacco i parrucchieri. L'ultima notizia, so già che ti piacerà, Corriere del Veneto, siamo a Treviso, bloccato Zorro, il pensionato che imbrattava i monumenti con una Z, imbrattava da mesi i monumenti di personaggi storici, tombe di Vittorio Veneto, lasciando una Z come firma, ma le azioni di Zorro sono state terminate. Il pensionato ha detto che faceva questo per protestare contro il comune che non voleva chiudere di notte i cimiteri, esponendoli così ad atti di vandalismo che lui stesso compiva. Giusto. Cioè, lui aveva capito che il primo nemico siamo noi stessi. Bravo. Capisci? Noi siamo il primo nemico di noi stessi, quindi se voi non mi impedite di essere, diciamo, di essere trasgressivo, io lo sarò. È un'intuizione molto forte, quella del nostro Giorgio, che io condivido, per cui ci vuole una vittima sacrificale che fa vedere a tutti che insomma noi stessi siamo i nostri nemici. Sono notizie molto belle quelle che ha dato, indicano un profondo conflitto con l'elemento religioso tra il sacro e il profano che in tempi di crisi economica si rinnova costantemente. Bisogna quindi una fase di passaggio della quale i protagonisti sono questi umili, diciamo, sacerdoti di provincia. Esatto. Dio si manifesta nella semioscurità. Esatto, di cui il parrucchiere è un testimone. Davide Riondino, anche oggi a Mine Vaganti. Ma Davide, volevo ricordare un appuntamento, sì, importante al Rocella Jazz Festival, dove sarà in scena il 17 agosto, mercoledì, con una cosa, con una cosa particolare. Molto particolare. Vado a leggere insieme a... C'è un trombettista filosofo, credo l'unico del mondo, si chiama Massimo Donà, sì, molto bravo, che ha un gruppo di musicisti molto bravi che fa un concerto. Dentro questi concerti il nostro trombettista, che è anche un filosofo che insegna a San Raffaele e quant'altro, inserisce dei brani di letture filosofiche. Io sono la voce recitante che leggerà queste cose di Emo, un filosofo ignoto ai più, perché sembrava avesse scritto nulla, invece hanno trovato degli armadi pieni di appunti, una specie di heideggeriano, amico di De Chirico, italiano, Maurizio Emo, che stanno riscoprendo. Quindi leggo queste cose bellissime mentre non ha suona. E tu mi mancava questa. Eh sì, ti mancava in effetti. RocellaJazz.net è il sito. Grazie Davide, come sempre, per essere stato qua con noi. Ciao. Figurati, grazie. Buon Ferragosto. Ciao. Invece adesso andiamo negli States, andiamo da Alex Bellini, andiamo a correre con lui. Tin soldiers and Nixon coming, we're finally on our own. This summer I hear the drumming for dead in Ohio. Gotta get down to it, soldiers are cutting us down. Should have been done long ago. Sono 4.000 oramai chilometri percorsi, oggi la tappa numero 51 ed Alex Bellini in collegamento con noi. Ciao Alex! Ciao Federico, rieccoci, un'altra settimana è passata. È passata bene? Sì, è passata bene, ti devo correggere, non credo sia la tappa 51, bensì la tappa 57. Ah, sì, ho sbagliato, scusami, quindi... 57, hai ragione, no? Ti eri spaventato, hai detto, no, le ultime 6 non le voglio rifare. Esatto, avevo già fatto tutti i miei conti e non potevo sbagliare. Alex, intanto ho scoperto che hai dormito in prigione, cos'è successo? Guarda, è stata una cosa folle da parte degli organizzatori, ci hanno prenotato delle stanze in una vecchia prigione di una contea ormai riadattata a bed and breakfast, un divertente bed and breakfast, ma la sensazione di dormire dietro delle sbarre è stata forte, insomma io non ho combinato nulla, ecco, volevo chiarire questo, è stato uno scherzo dell'organizzazione. Ok, alexbellini.it è come sempre il sito per seguire Alex giorno per giorno, oppure tutti gli aggiornamenti in Facebook e in Twitter. Alex, qui la domanda però che tutti stanno facendo, anche i nostri ascoltatori, è una: sei diventato papà correndo o non ancora? Non ancora, mannaggia, non ancora. Mi sa che questa bimba vuole aspettare il suo papà perché sta tardando un pochettino. Ma come la prima, come Sofia, che abbiamo dovuto chiamarla a gran voce. Comunque non ancora, vi faremo sapere. Ah sì, no, vorremmo essere tra i primi, però insomma sentiamo che c'è tensione, una felice tensione, però c'è anche tra chi ti sta seguendo. Dove stai correndo oggi? Ma guarda, in questo momento mi trovo in una cittadina che pare anche essere carina, si chiama Franklinton o qualcosa del genere, nell'Ohio, e quello che notavo proprio mentre aspettavo il collegamento è che qui le città si stanno facendo sempre più grandi. Se abbiamo passato dei mesi senza vedere niente, solo deserto, solo vegetazione rigogliosa, sempre più spesso invece ci troviamo in mezzo al traffico metropolitano, non ancora metropolitano, ma al traffico delle città. Le città si stanno facendo sempre più grandi. È stato un po' una specie di viaggio nelle culture americane, perché anche le facce che incontriamo adesso non sono più come quelle che abbiamo incontrato nel New Mexico o nell'Arizona. Adesso è molto più newyorkese quasi l'atmosfera, e questo ci tiene ancora più con il morale alto, perché ormai ci siamo, mancano solo 13 giorni. Ma quindi vuol dire che comunque nelle vostre corse attraversate anche le grandi città, o gli itinerari sempre costeggiano i centri urbani? Guarda, io ho fatto questa riflessione, credo che degli Stati Uniti noi abbiamo visto il lato B, il lato meno conosciuto, il lato fatto di piccoli paesi, di questi villaggi ormai abbandonati, però capita per ovvie ragioni, perché poi la strada sì, ce ne sono molte, però quelle che portano a New York nella maniera più rapida sono veramente poche, e quindi capita, come è capitato qualche giorno fa, di attraversare Indianapolis, la prima grossa città, poi Springfield nell'Indiana, adesso questo Franklinton, che non capisco bene come si chiami. Capita di attraversare anche città, ma è anche divertente, perché poi c'è tanta gente curiosa che chiede cosa fate, cosa non fate. Io li invito sempre a seguirci, a unirsi con noi, ma poca gente accetta l'idea. Mine Vaganti di Radio 24, questa è la nostra pagina in Facebook, dove trovate tutti i link per seguire in diretta Alex Bellini. Alex sta correndo con noi dall'inizio di questa avventura. Alex, tra i tanti messaggi che sono arrivati, ce n'è stato uno che mi ha fatto molto sorridere, quello di un papà che dice che ascolta sempre le nostre chiacchierate con la figlia di 9 anni, la quale figlia gli ha chiesto: papà, ma perché questo signore corre sempre? Che è una domanda. Guarda, c'è da chiarire che a questa bambina che questo signore non corre sempre, sta correndo adesso, ma non è la sua attività preferita. Io preferisco spostarmi lentamente, ecco perché poi ogni tanto mi concedo anche delle lunghe camminate. Per rispondere in altra maniera a questa bimba, io corro per il piacere di farlo, un po' come faceva Forrest Gump, no? Magari con più consapevolezza. Lui era partito senza sapere neanche perché e per come, però ognuno poi c'ha una domanda in testa a cui vuol dare una risposta e le risposte magari vengono anche correndo. Certo, Alex, mancano 13 giorni, hai detto, 13 giorni che quindi vuol dire che vedi il traguardo, vedi l'arrivo, questo può essere un inganno più per la testa o più per il corpo? C'è un rischio di scivolare proprio alla fine e come stai cercando di evitare questo rischio? Guarda, il corpo è sempre molto intelligente, più intelligente di chi poi lo governa. È successo proprio questo, che magari preso da un attimo di emozione, di foga, di voler arrivare a tutti i costi il prima possibile a New York, sono due giorni che ho dovuto rallentare molto il mio incedere, la mia corsa, perché ho avuto insomma un piccolo problema al muscolo tibiale della gamba destra. E questo per forza di cose mi costringe a riprendere i ritmi, quelli di una volta, quindi non c'è tanta possibilità di correre o di fare il ganassa, no? Come si direbbe. Bisogna prendere il proprio tempo, alle volte va bene, alle volte va meno bene. Diciamo che è solo una questione di numeri, perché so che a 70 io dovrò arrivare e i numeri che mancano al 70 sono sempre meno. Mancano ancora tanti chilometri, forse più di 1000. E quindi prendiamola comunque con calma. Mm-hmm. Prima ci hai accennato tante facce, tanti sguardi, tante persone anche che ti chiedono dove state andando e perché lo state facendo. E ti porti a casa questa settimana qualche cartolino, qualche incontro particolare? Guarda, adesso chiedo a Mauro che personaggi interessanti abbiamo incontrato questa settimana. Sì, è vero. Proprio i due poliziotti, no? I due proprietari della locanda, della prigione, che erano proprio due cartoline proprio matte. Luca, Mauro e Simone hanno avuto grosse difficoltà a poter entrare nella nostra cella, perché non volevano liberarci, volevano darci a tutti i costi del vino, volevano intrattenerci, mentre io avevo solamente voglia di mettermi calmo sul mio letto. Forse è mancato un po' di cose interessanti, ma la settimana prossima vi racconterò sicuramente più belle. A noi piace la quotidianità, lo sai Alex, non stiamo cercando lo spettacolo, quindi va bene così e ci piace, anzi, sentirti con una bella voce di riposata è parola grossa, però una voce viva, una voce che c'è, e quindi è un ottimo segnale. Grazie davvero Alex, noi ci ritroveremo domenica prossima, continueremo a seguirti sui vari siti e in bocca al lupo. E il telefono è sempre acceso, vero, per quella chiamata che prima o poi arriverà dall'Italia. Ma corro col telefono sempre acceso, quindi è solo questione di tempo e prima o poi a quella telefonata risponderemo. E noi grazie, ciao Alex, un abbraccio. Saluto Federico, ciao. Ciao, buona ciao, serata, ciao, ciao. Sempre chiudiamo Mine Vaganti parlando di musica, di contaminazioni sonore. Ci piace andare a scoprire chi fa musica utilizzando anche strumenti diversi, utilizzando metodologie altre. Beh, oggi andiamo alla scoperta della metafonia. Che cos'è? Non è facile da spiegare, ve ne abbiamo dato un piccolo assaggio in questi secondi, ma con noi c'è il compositore, musicista e concertista che ha ideato questa disciplina. Diamo il benvenuto a Stefano Ordini. Ciao Stefano. Ciao, vi ringrazio dell'invito, saluto te e tutti i vostri ascoltatori. Grazie Stefano. Andremo in un campo un po' strano, sì. No? Perché apparente, cioè, immagino che possa anche suscitare un certo scetticismo. Cercherò di semplificare, di bignamizzare quello che andremo ad ascoltare. E cioè, in soldoni, ho cercato di fare una sintesi tra le mie composizioni e queste sonorità, nel mio caso specifico, sono suoni di cori, voci cosiddette dell'alta dimensione che mi sono state documentalmente fornite da uno dei più noti ricercatori in Italia e all'estero, si chiama Marcello Bacci. Che è una sorta di un medium, come lo possiamo definire? Sì, esatto, è un medium che fa questo, diciamo, professione non a scopo di lucro, e è tra l'altro uno dei maggiori ricevitori di queste cose. Lui praticamente registra sonorità e anche dialoghi, monologhi, praticamente è uno dei tanti ricercatori usati anche dalle famiglie quando hanno la sfortuna di avere tra parenti, tra figli, un lutto. Lui non solo ascolta le voci, ma riuscite anche a registrarle. Ma dunque, il discorso nacque diversi anni fa e mi disse: guarda, tra le mie registrazioni vi sono anche sonorità museali, cori. Praticamente questi cori sono si sentono delle sonorità, delle sovrapposizioni, delle masse sonore, un po' che ricordano, questo sempre così, una descrizione molto dozzinale, però per farci capire, ricordano un po' delle sonorità corali di tipo Domenico Odissea nello spazio, cioè sono strati praticamente vocali, corali infiniti, praticamente non hanno soluzione di continuità. Certo, io ti confesso che io sono assolutamente scettico, però insomma prendo atto, infatti, tu mi stai raccontando la tua arte, ma come vengono registrate? Scusa. In effetti non sono qui per imbonire nessuno, né per convertire gli illuministi verso altre cose, però era un'occasione ghiotta, nel senso non era mai stato fatto da nessuno una cosa del genere, quindi il primato c'è. Però ecco, se doveva essere soltanto un escamotage, chiaramente era soltanto una furberia. Sì. Abbinando sostanza, quindi perché io mi ritengo un artista, nel senso che ecco, questa operazione è stata allettante anche come, così come appunto come primogenitura, come prima cosa che non era mai stata fatta, però chiaramente si era affidata soltanto all'escamotage, avrebbe avuto le gambe corte. Certo, quindi tu comunque prendi queste registrazioni, poi dopo le campioni e comunque ci fai dei tuoi giochi musicali. È un discorso lungo, però in soldoni è così, cioè praticamente io ho elaborato queste, le ho ripulite, perché praticamente sono sonorità sporche, escono fuori da una vecchia radio valvolare, a volte anche con la spina disinserita, quindi è un lavoro particolare. Poi ne ho individuato le varie aree, diciamo, tonali. Sì. e le ho dopo aver elaborato, aver ripulito il materiale, le ho collegate con le mie composizioni. Il risultato estetico, ora non so voi che brani avete, però mi sembrano di metafonie e ufonie volume secondo, mi sembra. Sì, adesso lo ascoltiamo un attimo insieme e poi ci dici che cos'è, vai. Stefano, cosa stiamo ascoltando? Ecco, in pratica questo brano si chiama Alien Song, sì. E è una cosiddetta voce, alcuni sostengono della dirà, in ogni caso sono queste voci paranormali che sono state registrate. Io l'ho isolata e l'ho collegata con una delle mie composizioni, e l'ho inserita in un prossimo CD che dovrebbe uscire tra non molto, che si chiama Metafonie e Ufonie volume secondo, perché tra le altre cose ci sono anche delle ipotesi che queste voci non possono essere di origine terrestre, diciamo, sì, non voglio dire extraterrestre, se non sembra, però in ogni caso anche questa è stata un'operazione che ho cercato di abbinare, insomma, cioè non solo un fatto sensazionalista, ma anche un fatto musicale, un fatto creativo. Insomma, tu comunque fai l'artista, poi hai queste voci, poi che siano di UFO, che siano di morti, che siano, esatto, a te interessa, esatto, relativamente. La conclusione poi è questa, nel senso che va bene come input, diciamo, come come prima spiegazione. Poi il discorso è questo qui, cioè è un tipo di opera che non vuole fare adepti e non vuole convincere nessuno su qualcosa, però è semplicemente una visione artistica che utilizza delle cose, dei mezzi che sono esistenti oggi. E certo, poi se riesce a vendere sia nell'aldilà che nell'aldilà, potrebbe essere un nuovo mercato. No, cioè, ti dirò sì? Forse qualcosa che stupirà, ma nell'aldilà sta andando bene, nel senso che sta avendo ottime recensioni un po' in tutto il mondo. Perfetto, e sull'aldilà non abbiamo dato di saperlo. Diamo il sito. No, sull'aldilà mi hanno detto di continuare. Ok, ottimo. Stefano una Ordini. Volta ho fatto una seduta e c'era una voce in spagnolo, mi ha invitato caldamente a continuare con successo. Era il tuo discografico. Ciao Stefano, grazie davvero. StefanoOrdini.com il sito, se volete conoscerlo meglio. Un grazie a Valeria Bernardi alla parte tecnica, ad Alessandro Balia e Margherita Ina, che con me hanno scritto la puntata. Mine Vaganti @radio24.it, se ci volete contattare. Ancora ciao da Federico Taddia.